Incursione. Eravamo tutti nell'anfiteatro, dalle nostre postazioni seguivamo quelli di noi in missione nelle galassie. C'era un chiasso assordante, una confusione indomabile. Per farvi un'idea, c'era la stessa baraonda che potete trovare in alcune vostre stazioni dei treni. Sommersi in quel delirio, io e Gabriele eravamo curvi a leggere la nuova lettera di André, cercando a fatica di rimanere concentrati. Sono preoccupato per Alan. Sembrava avesse trovato un equilibrio tra il suo solito cinismo e il suo nuovo impegno con la Polizia Nazionale, invece no. Il suo nichilismo ha superato i livelli di guardia. Sono preoccupato, la pausa non gli è servita a niente, è peggio di prima. Fa discorsi troppo cupi, dice spesso che la vita lo ha sfiancato, non la sua vita, ma la vita in generale. Dice che la vita è una prigione, che è solo una sequenza infinita di eventi che non portano a nulla. Continua a ripetere che non ce la fa più, che la vita gli è insopportabile e non vede prospettive. Mi ha anche detto che se avesse coraggio si butterebbe giù dalla finestra. È brutto sentire dire queste cose da una persona che conosci da tanto tempo. Gli voglio bene, è come un fratello per me. Non so cosa fare per aiutarlo. Tra l'altro, il suo lavoro con la Polizia Nazionale sta dando risultati eccellenti. Ha scoperto una grossa organizzazione che gestisce il traffico planetario di organi e armi. Grazie a lui stanno per sgominarla. Una cosa grossa. Dovrebbe andarne fiero, invece il suo carattere e il tempo passato nel Dark Web lo stanno distruggendo. Ma non è solo questo, mi ha raccontato di un incubo che lo ha terrorizzato. Ha detto di essersi svegliato perché non riusciva a respirare, con una sensazione di gelo intorno al collo. Quando ha aperto gli occhi dice di aver visto uno sconosciuto, con i capelli nerissimi e lunghissimi che lo guardava con cattiveria. Questo personaggio aveva gli occhi viola che ad un certo punto si sono accesi come fossero lampadine, più gli occhi si illuminavano più la morsa intorno al collo si faceva gelida e soffocante. Ha detto che tutto sarà durato sì e no una manciata di secondi, ma sembrava un tempo infinito. Mikael si accostò a noi sporgendosi verso la lettera. Gabriel tamburellò l'indice sul foglio, indicandogli il nome di Alan. Questo rischia di perdere definitivamente la testa, sbuffò Mikael. Gabriel guardò dritto negli occhi Mikael, si capirono all'istante. Mikael con un cenno chiamò Sharut, Grafatas, Meliot. Gabriel chiamò Eyal, Rockel, Ayael. Andate anche voi, disse. Così Mikael con la sua pattuglia di sei corsero fuori dalla sala. Ehi! Ehi! Ehi! Strillò il re verso di loro vedendoli uscire. Ne parliamo dopo, brontolò Mikael senza neanche voltarsi. La regina divertita guardò prima il re, disorientato dall'ostinazione di Mikael. Poi me e Gabriel. I miei ordini non contano più niente? Ci disse. Dai, non te la prendere. Noi siamo i buoni, gli risposi. Il re alzò gli occhi al cielo facendo cadere le braccia. Com'è che dite voi? Gli caddero le braccia. Alan era appena arrivato davanti alla porta dell'ufficio per il suo turno di lavoro. Era in un vero e proprio bunker segreto, nascosto nei sotterranei di Parigi. Stava per aprire la porta quando venne ostacolato da una nuvola argentata da cui si materializzò a buia. Subito apparvero anche Mikael, Sharut, Grafatas, Meliot. Eyal, Rockel, Ayael che entrarono nell'ufficio oltrepassando la porta chiusa e la parete. Alan sobbalzò. Che ca, provò a urlare Alan. Abuya si lanciò su di lui tappandogli la bocca con una mano, spingendolo violentemente contro il muro. Dovrai dar via tutte le tue macchine, tutto, telefoni, computer, tutto quello che hai. Tutto. Sono stata chiara? Gli disse risoluta fissandolo negli occhi. Alan annuì spaventato, svenne cadendo a terra. Appena Mikael, Sharut, Grafatas, Meliot, Eyal, Rockel, Ayael entrarono nell'ufficio tutti i colleghi di Alan persero i sensi. E da quel punto loro sette presero possesso dei computer. Mikael nervosissimo cominciò a impartire ordini, sugli schermi dei computer apparvero i seguaci del nostro avversario, successe il finimondo. Furono loro sette ad annientare tutta l'organizzazione che Alan aveva scoperto. Finito il pandemonio Mikael, Sharut, Grafatas, Meliot, Eyal, Rockel, Ayael sparirono e i colleghi di Alan si risvegliarono perfettamente ai loro posti, allegri, festosi. Alan si ritrovò seduto sul pavimento del corridoio con un calice di champagne in mano. «Sei contento?» gli chiese il suo superiore che passava in quel momento, «tutto grazie a te. E vieni con noi, non startene lì per terra. Abbiamo vinto», disse un collega di Alan affacciandosi dalla porta dell'ufficio. «Hai vinto, Alan. Hai vinto tu. Hai vinto». Alan era stordito, Era l'unico che aveva contezza di quello che era davvero accaduto. Guardava il calice di champagne ripensando ad Abuya, si soffermò a pensare a lei come mai prima, abbigliata in modo che gli suonava strano, lunghi capelli rossi, lineamenti aggraziati, aspetto elegante e molto femminile, ma con una forza fisica e quel fare bizzarramente mascolino. Ma cosa sei? Una suora? Una fotomodella? Un templare? Mormorò tra sé e Rar continua a dire che sei un angelo, sbuffò.